Rotte sonore. Suoni dai percorsi migranti. Benvenuti a tutti, di nuovo Rotte Sonore, di nuovo Radio Città del Capo. Direi un ultimo, penultimo domenica per questo dicembre 2016, sono più o meno le 14.30. Benvenuta Costanza e benvenuto Len. Ciao a tutti, benvenuti anche per questa domenica su Radio Città del Capo e soprattutto benvenuto a Len. Ciao Len. Ciao, ciao a tutti. Welcome to our radio, welcome to our transmission. Thank you very much. I'm happy to be here. Where are you from? I am coming from Cameroon in the central of Africa. Mm-hmm. So you can start to... To play the music? Yeah. Okay. Your music. My music. I would like to start with X Malaria. It's a group from Cameroon. They are great singers and one of the most famous singers in Central Africa. We are going to listen from them right now. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Ma femme, oui. Ils ont parlé, encore. Dénigré, ils ont saboté, découragé. Oh. Ils ont dit jamais, jamais, jamais, jamais. Ce voyou là, il va se marier. Ah bon? Aujourd'hui, un jour de vérité. Oh. Ça va se savoir. S'il te plaît, appelle ta tante qui parlait. Manolo, venez voir le mariage. Oh, oh, oh, oh, oh. Bébé, oublie les soucis. N'oublie pas d'appeler la copine. Juste pour nous voir danser. Oh. Bébé, oublie comme ça. N'oublie pas d'appeler la voisine. Oh. Juste pour nous voir danser. Oumbele, kundolo. Oumbele, kumbele. Oumbele, kumbele. Danser. Zaga. Tu es celle que j'aime, tu es tout pour moi. Oh, eh, oh, eh. La petite de mes rêves, celle que j'adore. Oh. Mina you, toi et moi pour la vie. La future maman de mes mouna, elle me fera du ndomba. Hey. Oh, eh, oh, eh. Toi et moi, juste toi et moi. Et mon bébé, viens dans mes bras. Juste pour nous voir danser, oh, oui. Bébé, oublie comme ça. N'oublie pas d'appeler la voisine. Oh, oui. Pour qu'elle vienne nous voir danser. Oh, oui. Avete appena ascoltato Mon Mariage di X Malaria, il mio matrimonio. Sì, sì. So this song is speaking about the wedding. Yeah, the song is speaking about the wedding of Ex-Malaria to Kelly, and he is trying to say, okay, today I got married to you after everything that people have been saying about us and all the jealousy around. Now I've finally proven to the world that I love you, and by so doing I got married to you. È una canzone d'amore che parla che comunque andranno le cose, nonostante tutte le malelingue e i pettegolezzi, ci sposeremo comunque perché il nostro amore va la meglio, insomma. Sì. È bello perché Alain parli sia francese che inglese alla stessa maniera. Però tutte le canzoni che metterai, che hai messo, che hai già impostato, sono tutte in francese, quindi tutti i cantanti, almeno in Camerun, tutti... Most of singers in Cameroon? Yeah, I have singers from Cameroon, France. I have singers from Congo, I have singers from America. Yeah, but I mean Cameroon singers, they usually sing in French. Yeah, Cameroon singers mostly sing in French because... Why? Because Cameroon is... Bilingual, okay. Cameroon is bilingual, but most of the people are French. Okay, are French speaking. Yeah. Okay. 80% of the people. Okay, quindi maggior parte, 80% delle persone in Camerun parlano francese. Sì, sì. Anche se Alain parla molto bene anche inglese, per mia fortuna. E il local language non è parlato, se non... Yeah, local language is not famous. Local language is just for the old people. Soltanto gli anziani parlano. Sì, sì. Cioè, prima volta che sento dire, insomma, il primo paese in Africa dove appunto... le lingue occidentali sono così, come dire, sì. E adesso cosa ci fai ascoltare? Next one? Okay, the next one we are going to listen from Drake and Rihanna, To Goat, and it is a lovely track too. I pray you enjoy it. Thank you. Tell you my intentions. attention. I wanna benefit from the friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Questo era Drake con Rihanna. Ok, Rihanna questa volta qualcosa la conoscevo anch'io. Rihanna la conosco, è molto molto famosa, ma anche Drake è americano e non lo sapevo. Drake too is American and I didn't know it. Yeah, Drake is American. He's a very very famous figure in America too. Yeah, and in Cameroon too. Yeah, famous. Like Drake is international. I mean, there is nobody in the world who doesn't know Drake. Drake is so famous. Except me. Parte me. Tutti conoscono Drake, a parte me, ma io non faccio testo. Ma dov'è che ascolti questa musica in Cameroon? Quando sei in Cameroon ascolti musica dalla radio? Sì, in the radio stations, in bars, in the clubs. Everywhere. In the houses of people, in the cars of people. I mean, everywhere. Everywhere. Drake is happening everywhere. Okay. Vabbè, no. Ci siamo. No, io ripeto, non sono da nessuna parte a sto punto, perché non l'ho mai sentito. Dai, Drake, cioè, lo conoscevo anch'io. Dai. Sì, sì. Ok, e anche il prossimo, forse, okay. Potrei conoscerlo. After Jay-Z? After this, now we are going to Jay-Z. Of course, Jay-Z and Alicia Keys. Jay-Z, everybody knows Jay-Z. He's very famous. Anche io, lo conosco anche io. Sì, sì, ok. Now we are going to list in New York, a song sung by Jay-Z and Alicia Keys. I hope you all love it. Down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Brought me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down 8th Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up at Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard. And I brought my boys with me. Say what up to Tata. Still sipping my tie. Sitting courtside. Knicks and Nets give me high fives. Nigga, I be spiked out. I can trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from skin out, city of sin, it's a pity on a whim, good girl. girls gone bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church ends. Came here for school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an Ambien. Empire State of Mind. Sì, mm? Yeah, by Jay-Z and Alicia. And city made of dreams. The city made of dreams, and there is nothing we can do out of New York. We have to go to New York. Yeah. Sì, sì, assolutamente, la città dei sogni. Mi sa che Jay-Z abbia ragione. The lights will inspire you. You. Sure, the light will inspire you, and everybody has to go to New York. Yes. In order to realize a dream. Chissà se Bolo State of Mind viene da questa canzone. Non ho idea, effettivamente l'ho vista anch'io in qualche manifesto, Bolo State of Mind. Magliette, cappellini, potrebbe provenire proprio da quello che dice questa canzone. Mm. Sì, perché è una canzone molto famosa, anche questa l'ho già sentita anche io, ed è tutto un dire. Beh, c'è di mezzo Jay-Z, uno dei più grandi producer americani, anche del mondo hip hop, quindi sì. Ok, that was Jay-Z, and now again I'm going to offer another track from this time around French. Maître Jim, of course, he's an artist from Congo, but he's very famous in French-speaking countries like France, Swiss, and Belgium, and Canada. I am going to put one of his famous tracks. I think most of us out there will really recognize it. I think so. Je me tire. Je me tire, sì. Potrebbe sembrare tipo me la tiro, però dai, non è poi così brutto come significato, no? Je me tire, ça signifie quoi? Je me tire, it's like I am trying to avoid something. Maître Jim, yeah, in this track, he was trying to say, okay, I've been too famous, and everybody recognizes me. There is nothing I cannot do without the paparazzi, without people speaking about my private life. I think it is time for me to, like, withdraw from the popularity, it is time for me to, like, withdraw from my stardom and try to live a normal life. Quindi ritirarsi un po' da tutto quello che è, no, i paparazzi e tutto, e vivere una vita normale. Sì, non sì. Da celebrità. Esatto. Sì, sì. Quindi è proprio magari all'opposto del melatiro nostro, no? Alla fine. Sì, ma la gente vorrebbe tirarsela in questo modo, ma pochi possono farlo. Esatto. Adesso. E chi potrebbe invece non lo fa. Vai. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. je me tire. Demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire juste pour la rire. Les gens me fuiront sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de maux de tête. La vérité c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me qui en t'aime. Malgré ta couleur ébène, je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Plus me guide, stop. Ne réfléchis plus, vas-y. Parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir, stop. Ne réfléchis plus, me guide, stop. Ne réfléchis plus, vas-y. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire juste pour la rire. Je me tire con Maître Jim. Yeah, Maître Jim. Production. Yeah, it's a famous artist, like I said before. And here he is trying to say he's so tired of the life of an artist. Being famous is really very boring because there is nothing you can do without people coming after you and the paparazzi. He has to sign autographs and things like that. So he's tired of all these things. He wants to go. He wants to go and live a normal life. Sì, sì, si è stancato. È una canzone che parla della celebrità e di quanto pesa essere celebre. Je me tire, cioè, mi tiro via perché ne ho troppa, sono troppo stanco di avere gente attorno, di essere perseguitato dai fan, insomma. Sì, è un pezzo notevole. Tra l'altro stiamo guardando YouTube, ha 143 milioni di visualizzazioni. Io non lo conoscevo, ma... È famosissimo, Bab, è un tormentone. Sì, sì, è probabilmente il mondo francofono. No, no, no, anche deve qua. Essere una anche qua, Bab, anche qua. Va bene, allora anche qua. Mi fido. Okay, that was Maître Jim. For those of you who would want to know about him, you can go on YouTube and you just type his name, Maître Jim, and maybe you see a collection of his songs. And right now we are moving over to Wiz Khalifa, and I saved this last one for this period because this is an Xmas period, this is a new year period, this is another beginning of a new year, and families are coming together, friends are coming together.

Sì, allora vi siete già preparati a questo Natale? Se non l'avete fatto ancora, no, fa cagare. Ormai sarete pieni di cibo, perché sono quasi le 15 di pomeriggio, quindi se non vi siete ancora preparati, vorrei dire che... Il cinismo di Bave si sente in tutta questa... Vorrei dire che vi sfonderete questa sera di cibo, che vi devo dire? A questo punto siamo alla fine. E... Tra un pasto e l'altro. Ci ascoltate. E raccontate tutte le vostre cose, no? A Natale. Ah sì, si fa così? Beh. Vabbè, buona festa della ricorrenza. Se lo dice Wiz Khalifa. Sì, sì, buona festa della ricorrenza della nascita di Cristo a tutti. Sì, sì, sì. Merry Xmas for everybody listening on air, and I wish you people a lovely and lovely festa. Oh, ci augura una piacevole festa di Natale a tutti, e vi auguriamo anche noi, gentili ascoltatori, che ci avete ascoltato anche oggi, il giorno di Natale. Se ci avete ascoltato, beh, speriamo che sia stato un buon ascolto. Alla prossima. Buon Natale!